Leggiamo il brano dell'Evangelo secondo Marco 3, 20-26. Gesù entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili a sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro sé stesso ed è diviso, non può reggere ma deve finire. Credo che si sia data poca importanza a quello che Gesù ha detto in questa occasione. Ogni famiglia, ogni chiesa, ogni convivenza sarebbe protetta ed enormemente benedetta se tutti tenessimo costantemente presente il monito di Gesù: ciò che è diviso non può durare, non può reggere. L'unità, intesa come concordia, armonia, unione, unanimità, è un principio che scaturisce direttamente da Dio, dal Dio Trino. La parola di Dio si riferisce al Consiglio di Dio, Atti 20 e 27, dando l'idea che la Trinità, dopo essersi consigliata, ha deciso di pari consentimento di creare l'uomo e di redimerlo. L'unità non è un bene in sé. In alcune circostanze può essere un grande male. C. È la buona unità e la cattiva unità, ha scritto Donald A. Carson nel suo bellissimo libro Amare in condizioni difficili, ma è talmente importante che anche il diavolo, la scimmia di Dio, non ha discordie. Lo ha detto Gesù. In effetti, se il diavolo avesse uno scopo e poco dopo ne avesse uno contrario, non potrebbe combinare nulla. Se lo scopo di Satana è quello di rendere schiave le persone, tramite i propri agenti, cioè i demoni, non può in seguito volere la loro libertà. Se Satana avesse sentimenti contrastanti, sarebbe destinato a fallire nei suoi intenti. Anche una coppia è soggetta a questa legge. Se due sposi non sono concordi, il loro matrimonio non può durare. Prima o poi divorzieranno. Ecco perché è indispensabile che due sposi cristiani preghino in modo efficace. La preghiera unisce. Non vedo come possa rimanere unito un matrimonio quando due sposi cristiani non condividono ciò che li unisce, la persona di Gesù Cristo. Le esperienze spirituali, le riflessioni sulla parola di Dio, la preghiera. L'unione è una delle forze più potenti della razza umana. Il detto «l'unità fa la forza» è un'affermazione veritiera. L'episodio della Torre di Babele, narrato in Genesi 11, 1 a 9, lo mette in evidenza. Ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avvenne che, mentre si spostavano verso sud, essi trovarono una pianura nel paese di Shinar, e vi si stabilirono. E si dissero l'un l'altro: orsù, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco. E usarono mattoni invece di pietre, bitume invece di malta. E dissero: orsù, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, e facciamoci un nome, per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo, e hanno tutti la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo laggiù e confondiamo la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra. Ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra. E di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. L'Eterno Dio aveva comandato di riempire la terra, ma ancora una volta gli uomini disubbidirono. Decisero di costruire una torre che arrivasse fino al cielo, affinché, come dissero, non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Quando l'Eterno scese per vedere, si rese conto che nulla avrebbe impedito loro di condurre a termine ciò che intendevano fare, perché tutti avevano una stessa lingua e usavano le stesse parole. Forse vi sorprenderà, ma non importa lo scopo per cui gli uomini fanno una cosa, non ha rilevanza la natura morale di un'azione, perché l'unione produce gli stessi effetti, sia nel bene sia nel male, la realizzazione degli obiettivi. E, come per la legge di gravità, non importa il motivo per cui lancio un sasso. Sia che lo lanci per colpire una persona, sia che lo getti per divertirmi, il sasso è destinato ad essere attratto dal suolo. Una legge sia fisica che spirituale non è soggetta alla morale. Ecco perché l'unità è un principio sia divino sia satanico. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo decisero uniti di riscattare l'umanità. Il diavolo, con un atto di unità, di armonia, di concordia, decise di opporsi al suo disegno. Leggiamo nel Vangelo di Luca. Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schermito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno, Erode e Pilato divennero amici. Prima, infatti, erano stati nemici. Luca 23, 11-12. Se Pilato avesse avuto un disaccordo con Erode, non avrebbe condannato Gesù. L'unità prese possibile la realizzazione del piano di Satana. LINDSPENSABILITADIUNACHIESAUNITA. Perché una chiesa possa procedere bene, deve essere unita, compatta. Senza questo presupposto, è destinata a finire, a dividersi. Un'espressione fondamentale non solo della coppia cristiana, ma anche della Chiesa è la preghiera. La preghiera è senza dubbio la forma di comunione ed unione più evidente. Gesù ancora una volta ha fatto una promessa che supera ogni confine e ogni immaginazione, se vi è pari consentimento nella preghiera. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 1:8-1:9-2:0. Prendere sul serio questa promessa significa rivoluzionare se stessi, la Chiesa e il mondo. Pensate, una coppia, due di voi o una Chiesa o tre, se sono uniti possono domandare una cosa, qualsiasi, e quella gli sarà concessa dal Padre. Non possiamo certamente negare che sia gli sposi cristiani sia la Chiesa non preghino. Non possiamo neppure sottovalutare che sia gli sposi sia la Chiesa non realizzano ciò che ha promesso Gesù. Perché la risposta è semplice, non vi è unione. È vero che vi sono tante ragioni perché Dio non risponde, ma queste possono essere ricondotte al disaccordo. Quando si afferma che una Chiesa o una coppia non sono unite, non ci si riferisce necessariamente al fatto che abbiano dei conflitti laceranti all'interno o che i membri di una chiesa o gli sposi si facciano guerra aperta ogni momento. Vi è divisione, per esempio, quando si prega per lo stesso soggetto ma non per gli stessi motivi od obiettivi. Una chiesa e una coppia di sposi sono uniti quando le preghiere concordano, sia nei soggetti sia nei moventi. Una coppia di sposi può pregare per la conversione di un figlio drogato, ma mentre un coniuge desidera la sua conversione perché il nome di Dio sia onorato, l'altro può pregare perché si vergogna di avere un figlio del genere. I moventi sono diversi. E non solo. Si può pregare insieme e non condividere il contenuto di determinate richieste. Un giorno, mentre pregavo con mia moglie, le dissi: ti ricordi quando abbiamo pregato per Giacomo? Non avevo terminato la frase che lei mi interruppe dicendomi: tu hai pregato, intendendo con questo la sua estranierà alle mie preghiere. Pregavamo insieme, ma evidentemente lei non condivideva o era estranea a certe mie preghiere. Una chiesa prega perché desidera evangelizzare, mentre un fratello prega perché Gesù Cristo sia conosciuto, amato e creduto, un altro prega perché vuole semplicemente essere attivo. Un altro ancora prega perché vuole dimostrare il suo zelo e le sue capacità. Un altro per dimostrare che la Chiesa alla quale appartiene è più spirituale di un'altra. La Chiesa è unita per quello che riguarda il soggetto, ma divisa negli intenti. Anche al tempo dell'Apostolo Paolo c'erano delle persone che predicavano l'Evangelo, ma la loro motivazione era ben diversa. Leggiamo cosa scrisse l'Apostolo ai Filippesi. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa, comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro, e mi rallegrerò ancora. Filippesi 1.1518. Si possono condividere sia gli scopi sia gli obiettivi, ma essere divisi nei metodi. Nel libro degli Atti, leggiamo che Paolo e Barnaba erano concordi nell'intraprendere un viaggio per visitare i fratelli. Ma quando si trattò di decidere se prendere con loro anche Marco, leggiamo, Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Atti 15, 37-40. Anche Paolo si è separato da un fratello che l'ha aiutato in modo particolare. Perciò non dobbiamo stupirci se una chiesa ha delle difficoltà nella comunione fraterna. Nelle lettere dell'Apostolo Paolo appare evidente che le chiese alle quali aveva scritto erano in discordia, avevano delle divisioni. I Corinzi avevano delle preferenze. I Galati erano divisi sul concetto della grazia. I Filippesi non erano concordi nell'evangelizzazione. I Colossesi erano divisi da una filosofia mistica. I Tessalonicesi erano in discordia sulle profezie. Nella prima lettera di Giovanni leggiamo che alcuni si erano separati dalla Chiesa. Nella sua terza lettera Giovanni denuncia Diotref. Il cammino di una Chiesa per avere una vera unità di soggetti ed intenti è dunque lungo e difficile. Accontentarsi delle apparenze significa vivere da cristiani poveri per poi diventare dei poveri cristiani e alla fine cadere nella divisione. Per unità non si intende uniformità. I credenti di una chiesa possono e devono avere opinioni diverse, ma tutto questo deve essere vissuto in modo tale da produrre armonia e non conflitto. E come per la musica, non tutte le note sono uguali. Vi sono note lunghe e corte, i diesis e i bemolle. Alcune note da sole sono veramente sgradevoli, ma in una sinfonia ogni nota, al momento opportuno, rende la musica orecchiabile e gradevole. In una chiesa, quando tutti i credenti si sono accordarsi con il La, che è il Signore, in seguito, ognuno eserciterà il proprio dono in armonia con gli altri, per accordarsi con il resto della chiesa. Un dono esercitato senza discernimento può far stonare una chiesa e, a volte, dividerla. Il credente saggio valuterà gli effetti del suo ministero. L'unità della Chiesa deve anche esprimersi per quanto riguarda l'accoglimento di un fratello o di una sorella quali membri di Chiesa. Dobbiamo credere che il Dio Trino, unito nell'eternità, guidi la Chiesa secondo i suoi principi. Nessuna persona dovrebbe diventare membro di Chiesa se non vi è unità fra i membri circa il suo accoglimento. Chi diventa membro di una Chiesa deve accettare i principi guida degli anziani. Chi non lo fa divide, di fatto, la Chiesa. LINDISPENSABILITADIUNCOLLEGIOUNITO. Poiché la Chiesa locale è condotta da anziani, il principio dell'unità li riguarda in modo basilare. Se un regno diviso in parti contrarie non può durare, se una casa è divisa in parti contrarie non potrà reggere, ciò significa che un collegio diviso è destinato a subire la stessa sorte. Ciò che può minare l'unità di un collegio non sono i problemi della Chiesa, ma il collegio stesso, se è unito oppure no. Quando un collegio di anziani è disunito, non deve prendere decisioni, ma deve pregare perché lo Spirito susciti concordia. Se il problema sussiste, può informare la Chiesa perché preghi per la loro unanimità. Nessun collegio di anziani disunito può evitare di pagarne il prezzo. Gesù ha parlato chiaro. Ciò che è diviso non può durare, non può reggere. Gli anziani hanno la grave responsabilità di essere in pieno accordo nelle loro decisioni, diversamente commettono un grave mancanza davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Davanti a Dio perché non esprimono una sua caratteristica quale l'armonia, davanti alla Chiesa perché è condotta da un collegio disunito. Si creano delle discordie sostenendo che l'unità nel collegio di anziani è un'utopia, perché tanto qualcuno sarà sempre contrario. Se quel qualcuno è sempre comunque contrario, il posto di anziano non è per lui. Se invece la persona contraria è stimata, svolge il compito con riconosciuta serietà, gli altri fratelli devono prendere in seria considerazione le sue valutazioni. Se la sapienza sta in moltitudine di consigli, questi possono essere sia favorevoli sia contrari. Un collegio unito non implica che tutti gli anziani debbano vedere le cose nello stesso modo, ma che le decisioni prese non contrastino l'opposizione di nessun membro del collegio. Poiché tutti abbiamo sensibilità diverse, l'astensione di un anziano è segno di armonia. Per il riconoscimento degli anziani, non tutte le chiese usano lo stesso principio. Col passare degli anni, ho maturato la convinzione che un anziano, per essere tale, oltre ad avere le caratteristiche indicate dalla Scrittura, deve avere il consenso di tutta la Chiesa. Se un regno diviso in parti contrarie non può durare, se una casa divisa in parti contrarie non potrà reggere, un anziano riconosciuto in parte dalla Chiesa non può né durare né reggere. Se un anziano è riconosciuto solamente dalla maggioranza della Chiesa, nel momento in cui entra a far parte del collegio, divide l'unità della Chiesa. Se invece è il collegio stesso ad essere riconosciuto in parte, la Chiesa è divisa nel suo più importante organo, viene minata sia l'autorità sia la conduzione. Inoltre, un anziano non deve essere novizio sia nella fede sia come vita di Chiesa. Non basta che abbia il dono di insegnamento o sappia condurre. Egli deve aver camminato per un buon numero di anni con la Chiesa per dare occasione di manifestare la pazienza, l'amore e le altre virtù di cui Dio lo ha dotato. La conduzione di una Chiesa è affidata agli anziani, ma essi non sono né onnipresenti né onniscienti né incorporano tutti i doni della Chiesa. Ciò porta il collegio degli anziani ad avvalersi dell'aiuto dei diaconi, quali collaboratori e consiglieri. Secondo la Scrittura, non vi sono altre persone che possono svolgere il ministero di conduzione. Se una Chiesa è condotta diversamente, vi è un'anomalia nella guida della Chiesa. Quando anziani e diaconi sono untiti nei soggetti di preghiera e negli obiettivi, non vi sono ostacoli alle benedizioni di Dio. Un ultimo pensiero che scaturisce dalla lettura di Efesini 4, 1-13. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Quinto, è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Del questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. In questa parte della lettera di Paolo troviamo il concetto dell'armonia in modo particolare di vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo e la parola unità due volte. Al versetto 3 Paolo invita i credenti. Ciò significa che l'unità è già un dato di fatto per il credente perché tutti i figli di Dio sono uniti in Cristo. Il cristiano non è chiamato a creare l'unità, ma solo a conservarla sforzandosi. Quest'ultimo verbo dà l'idea del massimo impegno da parte dei credenti a mantenere l'unità già esistente in Cristo. Al versetto 13 Paolo invita i credenti ad usare i loro doni per giungere all'unità della fede. Ciò significa che l'unità della fede deve essere l'obiettivo di ogni cristiano, che l'unità della fede si ottiene mediante un cammino percorso insieme, confrontandosi. Queste riflessioni responsabilizzano enormemente ogni cristiano. Inasprimento, producono divisione. Non dobbiamo sottovalutare. Le motivazioni di ogni membro di chiesa devono mirare all'unità. Ogni maldicenza, mormorio, invidia, cattiveria, vendetta, ripicca, gelosia, calunnia, ingiustizia, concupiscenza, rancore, ribellione, superbia. Le conseguenze di questi peccati, perché Dio li odia. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per Lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Proverbi 6, 16-19. La condizione per avere comunione l'uno con l'altro è camminare nella luce. 1 Giovanni 1, 7. Camminare nella luce significa vivere nell'amore, e l'amore non divide. 1 Re 3, 16-28. Noi non possiamo lanciare i sassi e poi lamentarci che c'è, è freddo perché i vetri sono rotti. Non sono tanto ingenuo da pensare che ogni separazione sia peccato. Dio separò gli uomini quando volevano costruire una torre. Genesi 11, 7. Dio separò il popolo di Israele in due regni dopo la morte di Salomone. 1 Re Mezzogiorno e 24. Gesù non è venuto solo per riunire in uno i figli di Dio sparsi sulla faccia della terra. Giovanni 11 e 52. Ma anche per separare i componenti di una famiglia. Matteo 10 e 35. Al cristiano è richiesto di ricercare l'unità ma anche di non mischiarsi e di ritirarsi da chi si comporta disordinatamente. 1 Corinzi 5, 9 e 2 Tessalonicesi 3, 6. Egli deve essere giusto, santo, temperante, rendere ragione del suo operato, agire con amore per la gloria di Dio. Se in seguito a tale atteggiamento dovrà prendere, in coscienza, una decisione di separarsi, il cristiano si rimetterà nelle mani di Dio, con umiltà e sottomissione. Gesù, maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Isaia 53, 7. Ma sarà sempre una separazione, non divisione. La divisione, intesa come discordia, è sempre peccato. La divisione avviene quando io giustifico me stesso e ho un giudizio di condanna verso l'altro. La separazione, intesa come disunione, avviene quando vi sono posizioni inconciliabili e, per motivo di coscienza, ognuno sceglie la propria strada, senza per questo dover produrre una controversia che lascia ferite. Vi sono situazioni davanti alle quali, pur motivato dalle intenzioni più nobili, il cristiano si trova impotente di evitare di separarsi. La domanda del salmista è sempre attuale. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Salmo 11:3. Terminiamo queste riflessioni con una delle più belle esortazioni di Paolo che fece alla chiesa di Filippi. I filippesi amavano il Signore, amavano Paolo, amavano l'opera di Dio, amavano le scritture. Ma erano divisi. Alla luce di quanto abbiamo esposto, le sue parole acquistano un significato più vivo. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, prendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:1-11. Lo scopo del cristiano è di non fare nulla con spirito di parte, ma di imitare Gesù nell'abbassamento, per ricercare l'unità nei soggetti e nei moventi. Se queste riflessioni sono sbagliate, occorre verificare l'errore. Se sono imprecise, saranno oggetto di conversazione. Se sono giuste, bisogna metterle in pratica. Ma non possono lasciare sia gli anziani sia la Chiesa nell'indifferenza. Novembre 1999. Contributo. Verità più uomo, un binomio inseparabile, -GBU, Jonathan Lamb. Ellero.